won't find no great big bug. Ecco, ma la forte sì. Voglio, ho visto no. Dunque, mi ha telefonato l'uomo e mi ha detto, dice, guarda, dice che per quella questione del verde non c'è niente, non hanno ancora fatto niente perché non si sono messi d'accordo. Cercate quando è che vi mettete d'accordo? Quando si mettono d'accordo? Tra 3 mesi, cazzo, non ho capito. Dice, adesso prova al prossimo mese a vedere se si sblocca qualcosa. E se non ci guardiamo sul computer uno di questi giorni quando sali qua, guardiamo assieme, ci basta mettere l'ufficio di collocamento di Sassari sulle pagine gialle, c'è in pratica. E così guardiamo se c'è qualche cosa, qualche lavoro, se ci andiamo lì e si fa. Noi abbiamo in culo, noi ci andiamo a Libia, faccio un giro, non lo so, non lo vedremo. Adesso la mattina voglio andare per se sono arrivati questo campo di finali, con il baracchino così lo sistemo e vediamo un po'. Al finale di Massimiliano? E via. Ah? Via, quello di Massimiliano, quello del baracchino di premiato Massimiliano, giusto? Ho capito. Ad Affusaro. Affusaro devo andare. Poi, no, adesso, fra 2 settimane devo andare al coso, alla carica. Ho messo il verbale per il coso, per l'altra, perché c'è quel biglietto in mano e a lui non gli ha fregato un accidente, capito? Mi ha fatto il verbale lo stesso. Io la pausa la tocca in culo, lui è il verbale. Seria, allucinante. Perché quando sono saliti loro io avevo il biglietto in mano e dice perché non l'ha fatto prima? Detto perché la verità mi è passato di mente, detto, sono salito e detto se mi è passato di mente e mi ha documenti, non mi ha manco guardato in faccia nulla, poi se mi ha fatto il verbale io vado a impegnare in culo, tanto è inutile andare a capito, devo fare una domanda, scrivere che avevo il biglietto in mano, se la tocca in culo se la tocca, la prossima volta quando sale gli attacco in culo il biglietto. Per carità, io stamattina non ho pagato l'altro verbale della multa che ha beccato mia sorella con l'altra macchina, 98 euro. Nulla, nulla, l'ho fatto solo io. Lui ha somme. Certo, boh, ogni volta che prendo la macchina mia sorella, cazzo, la devo tenere, cazzo, perché cazzo, wow, è una cosa allucinante. E poi, è passata nell'incontro il 4 di Vietto e lo sa che lì cazzo ci sono le telecamere, non tanto cazzo ci passano mantessi cazzo. Io non mi capisco di pagare giù per bar, solo pagare lì. Perché se la macchina magari erano le cose, il verbale devi pagarlo lì. Non è che lì fai cose e poi tu ti paghi i verbali, non lo sai manco. No, l'ho pagata la multa, l'ho pagata, ha dato mia madre i soldi, 98 euro, però quando viene gli ritorno, hai capito? Oh. Ah beh, allora già va bene, dimmi Luca, ciao. Ciao, quanto era la multa con il trimestre? 200 ohm, quello della ripetizione, l'altro è la 100 ohm, quello dell'amplificazione per aumentarla. 200 ohm? Via, 200 ohm. Ok. Mi ha fusato tutto in continuo così apposta, la pigli Giuseppe. Ma se no non mi ricordi, noi possiamo chiamare a te, no? Ma ti ricordi, ti avevi chiamato, ha detto Giuseppe, guarda che tra un po' ti chiamo, ma se non mi ricordo, qui parlare più io, scusa. Vabbè, ma tu mi avevi detto, adesso lo provo a chiamare, o per sì o per no, ti mando un messaggio, poi ti chiamo, o ti faccio una chiamata. Aspettando la tua cosa, boh? Io ho 500 minuti al mese, ero finito in primo questo mese, non è che posso fare miracoli, facciamo a te. Cambio, miracoli, diciamo, tipo ieri che è successo? Aspetta, ieri. Se non ti avevo chiamato, ma ho chiamato a Pomponio, ma quando non ti avevo chiamato? Vabbè, vuol dire che no, che soldi non ne ha, Luca, non ne ha soldi per poter comprare quel baracchino. Ma non è per programmare. molto bene quel microfono. Quanta metti da portato giù, fatto in cemento armato, allora lì bello pesante. cadere tutto in terra completo, così com'era, con la terra di 50 metri. Poi sono tutti morti, sono tutti morti, ma un pezzo, è che le, quella torre l'hanno fatta proprio attaccata al porto, volevano metterla più, più indietro, se l'avevano messo 10 metri più indietro, si erano salvati tutti, era tranquillo. Invece era attaccata la banchina proprio, avanti Luca. Luca deve essere al computer. Cappa, oh, yeah, per carità, cazzo, un casino, Cose che succedono, insomma. Marco, te lo aspetti, è un periodo brutto questo adesso. Oh, Iuia. Di tutti i colori succedono, grandine, grossa quanto cosa, quanto uova. Ogni tanto, poi dice questo tempo strano anche, un po' fa caldo, un po' fa freddo, un po' fa caldo, un po' fa freddo, boh. Non sai come cazzo vestirti qua. Stamattina c'era caldo, perché c'era caldo. La sera cazzo mi sono dovuto mettere giù un botto in jeans perché non ce la facevo, cazzo. Non ce la facevo a tenere a maglietta corta. Adesso c'è la patamona, ci stava bene. Però poi sono andato a cazzo alle porte lì in via Coso e via Brigata Sassari. Cazzo, era freschetto. Io credo che sia freschetto lì. Se vai a grossa, sei vecchio, c'è fresco lì. Specialmente lì al corso, lì. Se c'è tutte quelle case umide che sono le cantine. Se tu passi via San Donato in piena estate, che ci sono 35 gradi, passi davanti a quelle cantine che ci sono, uffa, vedo la modiga, ti vengono i piedi dritti. Cazzo, non c'è niente, e tu non ci hai mai abitato prima, io lo dicevo che ti voleva da abitarci, ti accorgerà come abitava a me, passare davanti a quei caseggiati che sono le cantine, me. Un freddo che te ne esce fuori, tu fuori con, a 30 gradi. E la seconda, quando dove abitavo io, che pigliavi una bottiglia di vino, te la bevi tranquillo lento, perché c'erano intorno ai 14-16 gradi, uscivi fuori bene alle 30, dopo che avevi finito il bel vino mi dici, è già cotto senza bere nulla. Scappa, voglia. Ui. Sai che la stamattina alle 10 e mezza che sono andato di là a fare quella questione del trovetto per il karaoke, ne sono uscito questo giorno a un quarto. Sì, ma lì bisogna andare alle 8, no, alle 8, che sono 20 come il mese di maggio, sono di là. Mi hai visto già, l'altra volta siamo andati assieme, grazie. Poi, più che altro lo fanno per le feste, il periodo delle feste adesso, ho capito. Le piazze e le paesi limitrofi, e quindi la gente va a pagare il contributo, capito. A fare le cose, il karaoke all'aperto e dunque le feste in spiaggia e tutto quanto, dunque si devono organizzare, no? Giustamente. Beh, giustamente sì. Poi io non ho mai visto quelli di Sassari quando fanno il karaoke a pagare la SIA e la verità scritta. Prima lo facevano direttamente a Lorenzo o scendevano lo stereo. Non ho mai visto io pagando la SIA e quelli lì. Cioè, il bar che ci siamo qua in periferia, diciamo, no, al centro storico, tutti pagano, ma lì al centro storico qualcuno di bar si ha, te lo sto dicendo. Quando vogliono fare una festa, chiudono le porte, come ti ho detto, e fanno il karaoke, festa privata, e quindi no, ma se c'è la porta chiusa, con la gente dentro, non ti possono fare nulla. Il brutto è se lasci invece la porta aperta, che entra gente, allora la cosa cambia. Scappa. Ui. E vabbè, là. È andata così, pazienza. Almeno fatto, va, non ci penso più perché almeno cioè, tranquillo, perché giovedì e venerdì è chiuso perché devono fare aggiornamenti e dunque ce l'ha già detto, no? Allora glielo faccio oggi, meglio. Beh, quello sì. No, già la voglia, in incazzano già, quelli cazzo se lo incazzano. Immaginati ogni festa incazzano i, ma se sei uno cantante, anche se non fai per dire 5 anni che canti, che sono usciti due dischi, e ascoltare, ci possono passare anche 25 anni, 30 anni, sempre pagando semi, se non pagano te, che sei magari morto, come cantante pagano la famiglia, e quindi capavo da quello, è come la pensione quella. Da lo so che è come la pensione, se vuoi fare una rapina lì, cazzo, è proprio un po' male viene, perché se non apre la porta so cavoli mai, perché sono blindati quei riflettori, capito? E lui ce la può come fare la rapina, per farla lì come ne fa la cosa, la rapina, scusa, come l'ha fatto l'altra volta, all'Equitalia, entri dentro, io la meridina, che me ne sono andate. Cazzo, boh, vediamo. Va bene Antonetti, ci sentiamo più tardi oppure domani mattina ci vediamo da Nico intorno a quell'ora, là, vai. Va bene, già ci vediamo lì da Nico. Così andiamo alla federazione e vediamo se arrivo, sono arrivati quei cosi, li ritiro e domani li piazzo. Ciao, va bene, ci sentiamo domani mattina.